Tra le stanze di cui evocavo più spesso l'immagine, nelle mie notti d'insonnia, nessuna era più diversa da quelle di Combray, profuse di un'atmosfera granulosa, satura di polline, commestibile e devota, di quella del Grand Hotel de la Plage a Balbec, i cui muri verniciati a smalto contenevano, come le pareti levigate di una piscina dove l'acqua si fa più blu, un'aria pura, azzurrata e salina. Il tappezziere bavarese incaricato di arredare l'albergo aveva variato l'arredamento delle stanze e in quella in cui mi trovavo ad abitare aveva disposto, su tre lati, lungo le pareti, delle basse librerie a vetri in cui, a seconda della loro collocazione e per un effetto che il tappezziere non aveva previsto, si rifletteva questa o quella parte del quadro mutevole del mare, svolgendo un fregio di marine chiare interrotte soltanto dai pannelli di mogano. Tanto che tutta la stanza aveva l'aria di una di quelle camere da letto modello che vengono presentate nelle esposizioni Art Nouveau, decorate di opere d'arte ritenute capaci di rallegrare gli occhi di chi vi si coricherà, e i cui soggetti sono stati scelti in rapporto al genere di luogo in cui verrà a trovarsi l'abitazione. Ma niente era più diverso dalla Balbec reale di quello che avevo sognato spesso nei giorni di tempesta, quando il vento era così forte che Françoise, portandomi alle Champs-Élysées, mi raccomandava di non camminare troppo rasente i muri per non ricevere qualche tegola sulla testa, e parlava in tono lamentoso dei grandi sinistri e naufragi annunciati dai giornali. Non avevo desiderio più grande che di vedere una tempesta sul mare, non tanto come un bello spettacolo, quanto come un momento rivelatore della vita vera della natura. O meglio, non c'erano per me spettacoli belli se non quelli che sapevo non essere artificialmente combinati per il mio piacere, ma necessari e immutabili, le bellezze di un paesaggio o della grande arte. Ero curioso, ero avido di conoscere soltanto ciò che ritenevo più vero di me stesso, ciò che aveva per me il pregio di mostrarmi un po' del pensiero di un grande genio o della forza o della grazia della natura, quale si manifesta se lasciata a se stessa, senza l'intervento umano. Come il dolce suono della sua voce, isolatamente riprodotto dal fonografo, non ci consolerebbe di avere perduto nostra madre, così una tempesta meccanicamente imitata mi avrebbe lasciato indifferente quanto le fontane luminose dell'Esposizione Universale. Volevo inoltre, perché la tempesta risultasse assolutamente vera, che anche la costa stessa fosse una costa naturale, non una diga costruita di recente da un'amministrazione municipale. D'altra parte, la natura, con tutti i sentimenti che risvegliava in me, mi sembrava quanto di più opposto ci potesse essere alle produzioni meccaniche dell'uomo. Meno recava la loro impronta, più offriva spazio all'espansione del mio cuore. Ora, il nome Balbec, che ci aveva citato Le Grandin, mi era rimasto impresso come quello di una spiaggia vicinissima a quelle coste funebri, famose per i tanti naufragi, avvolte per sei mesi all'anno nel sudario delle brume e nella spuma delle onde. Là si ha ancora la sensazione, diceva, più ancora che allo stesso Finistère, e quando anche oggi vi si sovrapponessero degli alberghi, senza potervi modificare la più antica ossatura della terra, vi si avverte l'estremo limite della terra francese, europea, della terra antica, dell'ultimo accampamento di pescatori, simili a tutti i pescatori vissuti all'inizio del mondo, di fronte al regno eterno delle nebbie, del mare e delle ombre. Un giorno che a Combray avevo parlato della spiaggia di Balbec in presenza di Swann, per sapere da lui se fosse il punto migliore per osservare le tempeste più violente, mi aveva risposto: «E come, se conosco Balbec? La sua chiesa del XII e XIII secolo, ancora per metà romanica, è forse l'esempio più curioso di gotico normanno. È così singolare che si direbbe arte persiana. E quei luoghi che, fino ad allora, non mi erano sembrati che parte della natura immemorabile, coeva dei grandi fenomeni geologici e altrettanto estranea alla storia umana quanto l'oceano e l'Ursa Maggiore, con quei pescatori selvaggi per i quali, così come per le balene, non ci fu un medioevo, era stato un grande incanto per me vederli entrare di colpo nella serie dei secoli, dato che avevano conosciuto l'epoca romanica, e sapere che il trifoglio gotico era venuto a un dato momento a innervare anche quelle rocce selvagge, come quelle piante fragili ma vivaci che a primavera costellano qua e là le nevi dei poli. E se il gotico conferiva a quei luoghi e a quegli uomini una determinazione che loro mancava, esse a loro volta gliene conferivano una propria. Cercavo di immaginarmi come avessero vissuto quei pescatori, il timido, insospettato tentativo di rapporti sociali che avevano intrapreso laggiù durante il Medioevo, ammassati su un punto delle Côtes d'Enfer, ai piedi delle scogliere della morte. E il gotico mi sembrava più vivo adesso che, separato dalla città dove fino allora l'avevo sempre immaginato, potevo vedere come in un caso particolare su rocce selvagge fosse germogliato e fiorito in uno snello campanile. Mi portarono a vedere alcune riproduzioni delle più celebri statue di Baalbek: gli apostoli dai capelli crespi e i volti camusi, la Vergine del Pronao. E per la gioia il respiro mi si fermava nel petto, al pensiero che avrei potuto vederli stagliarsi in rilievo nella nebbia eterna e salmastra. Allora, nelle serate tempestose e dolci di febbraio, il vento, insinuandomi nel cuore, che faceva tremare non meno forte del caminetto della mia stanza, il progetto di un viaggio a Baalbek, mescolava in me il desiderio dell'architettura gotica con quello di una tempesta sul mare. Avrei voluto prendere subito l'indomani il bel treno generoso dell'1:22, di cui non potevo mai leggere nella pubblicità delle compagnie ferroviarie o negli annunci di viaggi circolari l'ora della partenza senza che il mio cuore palpitasse. Mi sembrava che incidesse una tacca significativa in un punto preciso del pomeriggio, un'impronta misteriosa a partire dalla quale le ore deviate continuavano a condurci ancora alla sera, al mattino del giorno dopo, ma sarebbe stato possibile vederle invece che a Parigi, in una di quelle città attraverso le quali il treno passava e tra le quali ci permetteva di scegliere. Infatti si fermava a Bayeux, a Coutances, a Vitré, a Questembert, a Pont-Orson, à Baalbek, à Lannion, à Lamballe, à Bénodet, à Pont-Aven, à Quimperlé, e procedeva magnificamente sovraccarico di nomi che mi offriva in dono e tra i quali non sapevo quale avrei preferito per l'impossibilità di sacrificarne qualcuno. Ma senza nemmeno aspettarlo avrei potuto, vestendomi alla svelta, partire la sera stessa, se i miei genitori me l'avessero permesso, arrivare a Baalbek quando l'alba si sarebbe levata sul mare infuriato e andare a ripararmi dagli spruzzi delle onde nella chiesa di stile persiano. Ma all'avvicinarsi delle vacanze di Pasqua, quando i miei genitori mi ebbero promesso di farmele trascorrere una volta nell'Italia del Nord, ecco che a quelle fantasie di tempesta che mi avevano interamente riempito, non avendo che il desiderio di vedere onde accorrere da ogni parte e gonfiarsi sulla più selvaggia delle coste, accanto a chiese a picco sul mare e rugose come scogliere e nelle cui torri stridessero gli uccelli di mare, ecco che d'un tratto, cancellandole, togliendo loro ogni attrattiva, escludendole perché si contrapponevano ad essa e non potevano che attenuarla, si sostituiva in me la fantasia contraria di una primavera screziata al massimo, non la primavera di Cambrai che pungeva ancora aspramente con tutti i suoi aghi di brina, ma quella che ricopriva già di gigli e di anemoni i campi di fiesole e rendeva abbagliante Firenze di sfondi dorati simili a quelli del beato angelico. Da quel momento soltanto i raggi, i profumi, i colori mi sembravano avere valore. Infatti l'alternarsi delle immagini aveva prodotto in me un cambiamento di fronte del desiderio, brusco come quei cambiamenti che a volte avvengono in musica, un completo cambiamento di tono nella mia sensibilità. Poi accadde che una semplice variazione atmosferica bastò a provocare in me quella modulazione, senza bisogno di attendere il ritorno di una stagione. Infatti spesso in una stagione si trova sperduto un giorno di un'altra che ci fa vivere in essa, ne evoca immediatamente le gioie particolari, ce le fa desiderare e interrompe i sogni che stavamo facendo, spostando un po' prima o un po' dopo del suo effettivo momento quel foglietto staccato da un altro capitolo nel calendario interpolato della felicità. Ma subito, come quei fenomeni naturali da cui il nostro benessere o la nostra salute non possono trarre che un vantaggio casuale e molto limitato, fino al giorno in cui la scienza non se ne impadronisce e, riproducendoli deliberatamente, rimette nelle nostre mani la possibilità della loro comparsa, sottratta alla tutela e dispensata dal consenso del caso, così il formarsi di quei sogni di Atlantico e di Italia smise di essere sottoposto unicamente ai cambiamenti della stagione e del tempo. Per farli rinascere non dovetti far altro che pronunciare quei nomi: Balbec, Venezia, Firenze, all'interno dei quali aveva finito per accumularsi il desiderio che mi avevano ispirato i luoghi che disegnavano. Anche in primavera, trovare in un libro il nome di Balbec bastava a risvegliare in me il desiderio delle tempeste e del gotico normanno. Anche in un giorno di brutto tempo, il nome di Firenze o Venezia mi suscitava il desiderio del sole, dei gigli, del palazzo dei Dogi e di Santa Maria del Fiore. Ma se quei nomi assorbirono per sempre l'immagine che avevo di quelle città, non lo fecero senza trasformarla, senza sottometterne la riapparizione in me alle loro specifiche leggi, e di conseguenza la resero più bella, ma anche più diversa da ciò che le città della Normandia e della Toscana potevano essere in realtà, e accrescendone le gioie arbitrarie della mia immaginazione, aggravarono la delusione futura dei miei viaggi. Esaltarono l'idea che mi facevo di certi luoghi, rendendoli più specifici, quindi più reali. Allora non mi rappresentavo le città, i paesaggi, i monumenti come quadri più o meno belli, ritagliati qua e là in una stessa materia, ma ognuno di essi mi appariva come un ignoto essenzialmente diverso dagli altri, di cui la mia anima era assetata e che avrebbe tratto conforto a conoscere. Ma disegnati con dei nomi, nomi ad essi soltanto destinati, come ne hanno le persone, quanto acquistarono nel senso di una maggiore individualità. Le parole ci presentano una semplice immagine delle cose, chiara e usuale, simile alle figure che si appendono alle pareti delle aule scolastiche per dare ai bambini l'esempio di cos'è un banco di lavoro, un uccello, un formicaio, cose concepite come uguali a tutte quelle della stessa specie. Ma delle persone e delle città che ci abituano a considerare individuali, uniche come persone, i nomi presentano un'immagine confusa che trae da loro, dalla loro sonorità splendente o cupa, il colore di cui è uniformemente dipinta, come uno di quei manifesti interamente blu o interamente rossi, nei quali, a causa dei limiti del procedimento usato o del capriccio del disegnatore, sono blu e rossi non solo il mare e il cielo, ma le barche, la chiesa, i passanti. Il nome di Parma, una delle città che desideravo maggiormente poter visitare dopo aver letto la Chartreuse, mi appariva compatto, liscio, color malva e dolce. Se mi parlavano di una casa qualsiasi di Parma nella quale sarei stato ricevuto, nasceva in me il piacere di pensare che avrei abitato una dimora liscia, compatta, color malva e dolce, e che non aveva rapporto alcuno con le case di nessun'altra città d'Italia, perché la immaginavo soltanto con l'aiuto di quella sillaba greve del nome Parma, ove non circola aria, e di tutto ciò che l'avevo fatto assorbire di dolcezza stendaliana e del riflesso delle viole. E quando pensavo a Firenze, ci pensavo come a una città miracolosamente profumata e simile a una corolla, perché veniva chiamata la città dei gigli, e la sua cattedrale Santa Maria del Fiore. Quanto a Balbec, Era uno di quei nomi dove, come su una vecchia terracotta normanna che conserva il colore della terra da cui fu ricavata, si vede ancora delinearsi la rappresentazione di qualche usanza abolita, di qualche diritto feudale, di un antico stato dei luoghi, di una modalità insolita di pronunciare le parole che ne aveva formato le sillabe eteroclite, e che non dubitavo di ritrovare perfino nell'albergatore che mi avrebbe servito il caffè latte al mio arrivo, accompagnandomi a vedere la furia del mare davanti alla chiesa, e al quale attribuivo l'aspetto polemico, solenne e medievale di un personaggio di Favolelli.